Quando una persona diventa cristiana, ama Gesù Cristo perché è diventato il suo unico Signore e Salvatore. Ma vi è un altro sentimento che essa scopre, che essa, mamma mia che brutto, sì. Ma vi è un altro sentimento che essa scopre in se stesso e che non procede da lei. Sente un impulso nuovo d'amore verso i figli di Dio. Queste persone che prima le erano estranee diventano importanti per lei. Un cristiano non vive da solo e non è indipendente, ma esprime la sua fede con quelli che sono nati di nuovo. Poiché Dio li ama e ha avuto fiducia in loro, anche lui pone fiducia e affetto in loro. Sente la necessità di trovarsi con loro e di parlare di Gesù, perché ha una fede in comune con loro. Avvertirà che l'affetto verso i cristiani è maggiore di quello che prova per i suoi familiari e amici, e questo perché in lui scorre la stessa vita. Il cristiano, come leggiamo nella Scrittura, ricerca la giustizia, la fede, l'amore, la pace con quelli che invocano il Signore con un cuore puro. Invocano il Signore, cioè Gesù Cristo, e non altri. Se sei un cristiano, esprimerai la tua fede in una chiesa locale i cui membri pregano solo Dio e sono nati di nuovo mediante un atto di fede solo in Gesù Cristo. Il cristiano è colui che confessa la fede in Gesù Cristo. Se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Infatti, con il cuore si crede per ottenere la giustizia e con la bocca si fa confessione per essere salvati. È impossibile essere cristiani in segreto. La nuova vita si deve manifestare ovunque, qualunque essa sia. La vera fede produce il desiderio di confessarla. Ciò non significa che un cristiano debba essere un missionario o un predicatore, ma che appena ne ha l'opportunità testimonia della sua esperienza di fede e dell'amore di Dio. Un cristiano non presenterà una religione nella sua fede, non si vergognerà di testimoniare di Gesù Cristo e della fede che ha posto in lui. Il cristiano non è colui che è convinto di avere ragione, che crede che la sua fede sia quella giusta, che è certo delle sue convinzioni, ma è colui che crede che la verità sia Gesù e a lui affidato le sorti della sua anima. Se Gesù non è la verità, per il cristiano non vi è alcuna speranza né in questa vita né in quella futura. Tutto diventa enigmatico, egli inciampa in interrogativi senza fine, è la persona più disperata e vuota di questo mondo. Il cristiano è dunque colui che in Cristo, e solo in Cristo, ha trovato una volta per sempre la risposta e la soluzione a ogni interrogativo. Se sei un cristiano, non sarai fiero di appartenere a una religione e di difenderla, ma desidererai testimoniare agli altri del tuo unico Salvatore e Signore Gesù Cristo. Bene, la prossima trasmissione continueremo a valutare le caratteristiche di un cristiano con la preghiera che ognuno di noi glorifichi Dio con una vita conforme alla parola di Dio. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di noi. Gentili ascoltatori e ascoltatrici, benvenuti all'ascolto del nostro programma. Oggi termineremo le nostre riflessioni in relazione al tema «Sei un credente o un cristiano?». Poiché il nostro cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, ho pensato di considerare come si deve comportare chi afferma di essere un cristiano. E questo perché non è sufficiente essere religiosi, non è sufficiente accettare la Bibbia come parola di Dio. Milioni di protestanti credono nella parola di Dio, senza per questo essere cristiani. Wesley, abbiamo già accennato, ha predicato la parola di Dio anche quando non era cristiano.